che non possa, se voglio. Io non son Dio Arsilo, se ne questa scosa orlando, l'arcano non rivelo. La segreta stanza ove mi accenni, vola l'inferno, e il barco io mi disserro. Thank you.